Allora, eccoci qua, buonasera, come state? Questo è il nostro saluto Bene. quotidiano. Ciao Ezio, ciao Francesca, la mia compagna di Ciao. avventure in questa Ciao. nostra cura radio. Ciao Francesca, in diretta da Caldonazzo. Inizia la nostra serata, una serata dedicata qui a cura radio ai bambini, ai giovani, alla scuola, un po' i dimenticati di questa crisi, legata alla pandemia e al virus Covid. Francesca. Sì, ciao a tutti innanzitutto. Sì, oggi cerchiamo di continuare, insomma, questo viaggio virtuale, ma molto concreto che abbiamo iniziato ieri e che finirà domani, con delle puntate che vogliono interrogarci, con la nostra cura radiofonica, su quello che sono le nostre sensazioni, ma anche le nostre difficoltà riguardo alle limitazioni che esistono. E soprattutto riguardo a delle problematiche concrete che la nostra società si sta interrogando, su cui la società si sta interrogando. Sì, ci stiamo tutti un po' interrogando, però sembrerebbe, Francesca, che una delle interrogazioni invece che non sta avvenendo è quella attorno alla scuola, no? Si sta dibattendo molto se riaprire o meno i luoghi di produzione, naturalmente, si sta dibattendo di molto altro, ma poco si dice della scuola, poco si dice del diritto allo studio e del diritto dei bambini ad andare a scuola e anche dei giovani a poter stare insieme ai loro pari e a stare faccia a faccia con i loro docenti. Tra l'altro c'è una retorica anche un po', diciamo così, fuori luogo forse sulla didattica online che sta facendo perdere di vista i veri problemi legati alla scuola e il fatto che la scuola è un luogo, prima di tutto, che ha diciamo così, un rilievo sociale anche, no? Questo è un po', secondo me, il tema che dovremmo affrontare questa sera. Sì, ma infatti penso che quello che stiamo tentando di fare nei nostri incontri radiofonici è anche un pochino cercare di renderci conto di quello che... Scusate, ma c'è Oh. Ecco, un problema tecnico. sì, Buongiorno. abbiamo una serie di ospiti che si sono già collegati. Francesca, Daniele, Sì. ciao. Mi hanno un po' distratta perché Daniele si fa vedere anche video, noi Daniele, solito togli siamo il video. abituati. Tolgo. Ciao Perfetto. Daniele. No, stavo raccontando a Mattia, stavamo raccontandoci, anzi con Mattia, con Ezio e con te anche, quanto le nostre puntate, in particolare di questa settimana, stiano cercando di indagare la questione dei limiti, delle limitazioni, insomma delle problematiche, ma anche, visto che ci stiamo avvicinando alla fine di questa lunga emergenza, di questa lunga quarantena, alla fine della prima parte, se non altro, su quello che ci piacerebbe buttare via e su quello che ci piacerebbe tenere, tenere sicuramente per quanto riguarda le riflessioni interessantissime, profonde e dinamiche che sono venute fuori durante queste settimane, Per quanto riguarda la critica che stiamo cercando, una critica costruttiva, che è stata fatta da più parti alla nostra società. La prima, immediata è stata quella riguardo al sistema sanitario, che abbiamo visto depauperato e, nonostante questo, estremamente coraggioso. Ieri abbiamo ragionato con degli altri amici e compagni di viaggio e di viaggio radiofonico sulle tematiche del lavoro. Oggi ci è sembrato assolutamente opportuno ragionare sul tema della scuola, ma soprattutto sui diritti dei bambini e delle bambine che in questo momento ci sembra siano stati particolarmente danneggiati. Sì, allora io presenterei già a questo punto, visto che sono arrivati, sono qui con noi i nostri due ospiti, i nostri primi due ospiti, che sono due maestri, il maestro Daniele e il maestro Ezio, che sono due maestri delle scuole elementari, in particolare delle scuole elementari De Gasperi qui a Trento. Buongiorno Ezio, buongiorno Daniele. Ciao, Buongiorno, ciao, eccoci qua. Allora, ciao. Io Daniele con sono un tipo Skype. di intelligenza. Come dici, Ezio? No, volevo presentare, nel senso che sono un maestro un po' messo fuori In porta, diciamo. pensione. Sì. In Un po' pensione, ma sì, non troppo, diciamo così. ma non troppo. No, allora io vorrei iniziare con un'immagine con i nostri ospiti. In particolare inizierei da Ezio, che è al telefono con noi. C'è una cosa che mi ha molto colpito in questi giorni, in qualche fuga notturna che ho fatto per andare così a farmi due passi in città per non morire di inedia a casa. E sono passato da un parchetto, quello che c'è lungo il Fersina. E come sapete, tutti quanti i parchi sono transennati, no? E va bene, questo fa parte così dei decreti a livello nazionale, ma in più in questo parco c'erano i giochi con attorno il nastro, sapete quello bianco e rosso. Io mi sono chiesto, ma cavoli, addirittura il nastro attorno alle altalene. Mi è sembrata un'immagine bruttissima, Ezio. Eh sì, ed è poi l'immagine anche della scuola questa, nel senso che i bambini hanno lavorato moltissimo, sono stimoli ottimi proposti dai colleghi, perché non sono rimasti fermi e lavorano moltissimo, e come proposte, come idee, via di seguito. Quello che manca è metterci le mani. E no, metterci il corpo dentro questa scuola è un po' troppo astratto e credo che questo sia il limite. L'idea, l'immagine simbolica che hai lanciato tu, quella delle altalene bloccate con il nastro del pericolo, il nastro rosso e bianco, d'accordo? Sono emblematiche. Praticamente dovresti fare l'esperienza senza farla, Sì. dovresti comunicare senza vedere le persone, dovresti accordarti senza vedere i tempi, i modi, lo sguardo, e sentire l'altro vicino, magari per litigare o per far parte, per consultarti. È un po' strana, un po' anomala questa situazione. Sì, è vero, tra l'altro il maestro Ezio, come anche il maestro Daniele, come in generale nella scuola De Gasperi qui a Trento, c'è un po' questa tensione verso una scuola che non stia necessariamente dentro le aule. E tutto d'un colpo, Daniele, invece ci troviamo non solo non più chiusi nelle aule, ma chiusi in casa, addirittura con un'esposizione al video e ai mezzi elettronici altissima per questi bambini. Sì, però appunto bisogna fare a volte di necessità virtù. Mi spiego, da una demonizzazione iniziale degli smartphone, a scoprire che era l'unico accesso a tutte le famiglie, perché tutte sono dotate di smartphone, anche i bambini stessi ne hanno. Io ad esempio ho sempre utilizzato questo strumento proprio per arrivare dall'inizio a tutti e quindi si assegnava un compito o un tema con una traccia che si argomentava, si davano proprio istruzioni dettagliate che venivano inviate via smartphone, poi il bambino faceva il lavoro e lo fotografava e lo rinviava indietro. Questo prima ancora che si attivassero tutte le famose Google Classroom, G Suite, eccetera, che sono complicate per prima cosa per noi insegnanti perché non le abbiamo mai usate, onestamente parlando, e sono complicate per i genitori e sono anche complicate per i bambini perché non è vero che i bambini sono così poi nativi digitali. Sì, nativi digitali per fare il video di TikTok, per fare Fortnite, per fare le cose che gli piace fare, divertimento, ma per lavorare non sono molto digitali. E quindi giustamente ci vuole sempre una guida. Del resto la scuola, anche a scuola si usa ogni tanto il computer, si fanno dei PowerPoint, si mettono insieme delle foto per comunicare. Nel mio caso avevamo già fatto la seconda edizione del giornalino della scuola, che purtroppo non abbiamo potuto stampare, ma forse metteremo online comunque. Però per dire, le capacità dei bambini ci sarebbero se però guidate in presenza. Ecco, Eh e io sì, la parlo di bambini di presenza. quinta. Non oso immaginare cosa sia stato per le colleghe di prima o di seconda fare scuola in queste condizioni, perché è impossibile. Perché bisogna prendere atto che nella classe non è che si trasmettono conoscenze, non è che si trasmettono contenuti, si apprende sia per la presenza del maestro, che fa un po' da regista, ma si apprende anche la presenza dei compagni, perché i bambini si fanno aiutare dai compagni, sbirciano, chiedono l'amico, non il compagno di banco, e imitano e vanno avanti perché c'è un sostegno della classe al singolo, a chi è in difficoltà. Quelli bravi non hanno problemi, ma quelli in difficoltà con la classe vanno avanti, grazie alla classe. Lasciati a casa da soli, sono disorientati e non hanno quella cosa che c'è durante l'ora di lezione, ovvero Daniele. sia una vicinanza di tutti quanti. Quindi su questo momento noi ci prendiamo la responsabilità di portare avanti la scuola, ma sappiamo che è una scommessa che non so se riusciremo a vincere, ecco. Francesca. Io se posso aggiungere anche la mia riflessione più emotiva, noi sappiamo, abbiamo sentito raccontare di queste scuole online, insomma, dalle amiche, dalle madri, dai padri, dai maestri, però a noi cos'è che è successo, a noi cittadini, anche io che vivo in un paese piccolo, che siamo stati privati comunque per tante settimane delle voci dei bambini per strada. L'immagine che tu raccontavi, Mattia, che insomma anche il maestro Ezio ha trovato molto forte, l'ho vista anch'io, no? Ne abbiamo anche parlato in questi giorni, l'altalena di Caldonazzo, del parco di Caldonazzo, transennata, bloccata, e io non ho potuto che domandarmi perché, perché non era così scontato che i bambini fossero tenuti via dalle strade. Ci sono altri paesi, altre città che hanno fatto delle scelte differenti, anche la stessa Bolzano, l'Alto Adige è andato in direzioni differenti qualche settimana fa. Però ecco, insomma, devo dire che l'impatto con una città non solo silenziosa, perché senza macchine, senza attività, ma senza il vociare dei bambini è stato molto forte. E penso che la puntata di oggi, gli incontri e i confronti che faremo oggi, cercheranno anche di capire se questa qua è stata e soprattutto è e sarà la scelta più giusta, oppure se è stata una scelta imposta da una visione di adulti e non solo, ma anche da una visione di grandi che purtroppo hanno ragionato molto in termini economici, Mattia. Sì, questo è sicuro, forse è uno dei temi di riflessione. Tra coloro che, come dire, riflettono in questo periodo di scuola, e ce ne sono fortunatamente, anche se magari non arrivano ai piani alti del dibattito pubblico, ci sono coloro che propongono, per esempio, una cosa che il maestro Ezio ha fatto per tantissimi anni alle scuole elementari, cioè quello di fare scuola all'esterno, no? Di portare i bambini fuori. Chissà che questa non possa essere una soluzione anche da proporre in qualche modo per pensare un rientro dei bambini a scuola. Ma prima di continuare a parlare col maestro Ezio e col maestro Daniele, proprio parlando dell'esperienza che nel nord Europa fanno della scuola nella natura. Vorrei farvi sentire una cosa che mi ha mandato Francesca, che poi la stessa Francesca ci commenterà. Allora, se siete pronti, io manderei un audio da internet e poi lo commentiamo. Så på grunn av koronaviruset så er det blitt en veldig annerledes hverdag, både for voksne og for barn. Og alle som kan holde seg hjemme, bør gjøre det hele tiden. Så vet jeg at mange barn føler at dette er skummelt, og det forstår jeg godt. Eccoci Francesca, adesso io lo interrompo perché ovviamente abbiamo capito Ti che non è ringrazio. una lingua a noi comprensibile, ma ora forse ci spieghi di che cosa si tratta. Ma penso che la cosa forse risuoni anche nelle orecchie dei maestri. Questa qua è la prima ministra norvegese Erna Solberg, che qualche giorno fa ha fatto una conferenza stampa apposta per i bambini. A me è sembrata veramente una cosa meravigliosa, di un'attenzione che esprime tutta una cultura. Questo passaggio che ci hai fatto ascoltare, Mattia, raccontava come a causa del coronavirus lei parlava proprio anche il linguaggio dei bambini, diceva le nostre vite e quelle degli adulti sono diventate molto diverse, so che avete paura, è giusto avere paura, però sappiate che noi saremo al vostro fianco, sappiate che noi saremo qua per rispondere alle vostre domande. E questo, secondo me, oltre che essere stato un gesto bellissimo, rispecchia quello che io penso che sia mancato molto nel dibattito di queste settimane, perché sono stati fatti tanti decreti e tra l'altro un'accelerazione molto forte in questi ultimi giorni per quanto riguarda la fretta dell'apertura delle attività produttive, oltre tutte quelle che sono costantemente rimaste aperte in queste settimane, e ai bambini è stato semplicemente chiesto di sparire, cioè di stare a casa e di non disturbare quasi. E immagino, e Mattia, magari te ce lo puoi raccontare, quanto peso sia stato sulle spalle dei genitori, sulle spalle degli insegnanti che hanno dovuto affrontare ore e ore di lezioni online, e non parliamo poi della problematica gravissima dei bambini più fragili, cioè quelli che magari subiscono violenza in famiglia. Si è parlato delle donne, ma bisogna ragionare anche sui bambini che in famiglia non possono stare bene. Sì, io su questo, Francesca, vorrei così fare una domanda al maestro Ezio. Ovviamente alle scuole elementari, in particolare per l'accoglienza, no, dei bambini che arrivano in prima elementare, c'è tutto un lavoro da fare nelle scuole che inizia in primavera, eccetera. Poi chiederò anche a Daniele, al maestro Daniele, questo, ma Ezio, come si fa a preparare i bambini senza la fisicità del rapporto, la presenza degli insegnanti? Tu, che hai fatto scuola per tanto tempo, come vedi l'inizio dell'anno prossimo? Quali sono le tue speranze, le tue preoccupazioni? Ma la speranza è che tutto si possa vedere con la crescita che lui diceva avvenire anche per imitazione, perché un compagno copia dall'altro. Tanto è vero che spesso volentieri a scuola a me capita di dire copia, non sai, copia bene, nel senso che è la vita così. Provo a parlare della mamma copiando, imitando i versi, e così ha cominciato a camminare, copiando dal papà, dal proprio gruppo. Deve succedere, cioè dobbiamo tornare alla vita normale, metteremo qualche mascherina in più, terremo un po' di distanza, però dobbiamo tornare a vivere insieme questa esperienza. No, non useremo più il treno, ma l'affollamento, come ha scritto Olivia, tua figlia e altri bambini, mi ha ripetuto più volte questa esperienza con il primo giorno di scuola. La festa sarà un po' più allentata, più diluita sugli spazi, ma Bisogna bisogna tornare a tornare. stare Bisogna tornare a stare insieme insieme. anche Sì. perché, Anche perché la scuola non è solo apprendimento, non sono solo nozioni, ma anche imparare a stare insieme, no? Altri bambini, vivere nei conflitti, la capacità di risolverli. Maestro Daniele, come vedi tu? Quali sono le tue preoccupazioni, per l'inizio del prossimo anno scolastico? Voi di solito alle De Gasperi, ma come in altre scuole elementari, per l'accoglienza delle prime in particolare, iniziate già un lavoro in primavera. Cosa ti aspetti per settembre? Io mi aspetto che ci sia come minimo la possibilità di sapere se i bambini sono sani, se gli insegnanti sono sani, i genitori sono sani e quindi con la patente di negatività o comunque di immunità poter lavorare senza troppi vincoli, perché è impossibile immaginare di fare un'accoglienza di bambini prima elementare senza una vicinanza, un contatto fisico. I bambini ti toccano, i bambini ti parlano vicino, i bambini tu li devi andare banco per banco a tenergli in mano la matita, gli guarda, si tiene così. È un lavoro immane in prima elementare. Non, se non si può fare così, non si può fare in nessun altro modo, non c'è nessun tutorial che permette di poter iniziare una prima senza stare con i bambini, attaccato ai bambini, vicino ai bambini. È impossibile. Quindi l'unica maniera è avere la sicurezza che ci si può avvicinare. Punto. Il discorso non si può fare una scuola a distanza, in presenza. È una contraddizione in termini. Quindi se torneranno a scuola i bambini dovranno potersi relazionare come giustamente bisogna fare. Altrimenti non si potrà tornare a scuola. Non so come si potrà tornare a scuola senza poter fare scuola come si può fare. Non ci sono, non c'è un modello B di fare scuola. Forse ci possiamo illudere con quelli già adultizzati, parlo di dodicenni, tredicenni, adolescenti, ma i bambini no, Ma assolutamente. posso chiedere allora, posso chiederti, Daniele, te cosa pensi delle, insomma, dei numerosi annunci che ha fatto l'assessore Trentino Bisesti sull'idea di tornare l'11 maggio, per esempio, no? C'erano queste date a scuola, insomma, di riaprire la scuola per le ultime settimane dell'anno. Allora, ho sentito anch'io che c'è stato qualche annuncio di questo tipo, ho anche capito che però si fanno questi ragionamenti per le classi finali, terza media, quinta superiore e forse quinta elementare, e prima elementare per fargli un recupero, diciamo, di ricapire che sono andati a scuola. E chiaramente è un tentativo per fare una scuola con mantenendo la distanza della fase 2, ovvero sia una distanza di sicurezza, considerando che tutti possono essere potenzialmente contagiosi. Quindi, visto che c'è questo rischio, e questo rischio sanitario è serio, dobbiamo tenerne presente. Però, dalla fattibilità, dall'organizzazione, bisogna muoversi in fretta a sistemare le cose. Non sarebbe male, per carità, io sarei anche contento di poter salutare la mia classe e fare in modo che la mia classe, che è una quinta, si possa ancora relazionare per le ultime settimane prima di andare via dopo 5 anni. Sarebbe una... Pronto? Non si sente più niente. Quanta con genitore. Ma se dovessero tornare a distanza di 2 metri da tre dall'altro e devono incominciare a occupare anche tutta via Zandonai e quindi finalmente quella via Zandonai rimane bloccata al traffico perché sarebbe piena di bambini che stanno lì a aspettare distanza di sicurezza. Sto scherzando, però già da lì non si può far tornare tutti a scuola con questa idea della distanza. Io la vedo, cioè dobbiamo trovare un'altra soluzione, cioè fare in modo che abbia una patente di immunità. Noi sappiamo anche che i bambini sviluppano molto, a livello molto più basso il contagio e anche se si contagiano non danno sintomi. Bambini ricoverati in terapia intensiva non ce n'è neanche uno, tanto per dirla tutta, ok? Sono ricoverati, anzi sono a casa ma non sono malati gravi. Quindi potremmo anche rischiare che i bambini vadano a scuola, però anche sono i genitori che poi potrebbero ammalarsi loro, quindi le famiglie, allora bisogna fare una... protezione intorno ai bambini che ci permetta di ricominciare a fare la scuola. E certamente, Daniele, però Daniele, sicuramente sono assolutamente una necessità, come ci dicevi tu e come ci diceva il maestro Ezio, cioè la presenza, no? Poter stare con questi bambini e dare loro lo spazio per interagire tra di loro, per interagire con i maestri, ed è anche in questo modo, no? che si impara, che si entra nel sistema scuola. Vedremo cosa ci riserverà il futuro da questo punto di vista. Io intanto vi ringrazio il maestro Ezio e il maestro Daniele e vi saluto. Grazie. Alla prossima. Va bene. Grazie, alla prossima. Arrivederci. Ciao. Ecco qui Francesca. Mattia, allora, penso che i nostri due maestri ci abbiano regalato abbastanza con forza l'immagine di una scuola che è un anello essenziale della nostra società e che tra l'altro deve inserirsi in un'organizzazione anche insomma molto precisa, molto ben oliata, perché quello che ci hanno suggerito i maestri per far tornare i bambini a scuola deve inserirsi chiaramente in una visione complessiva e tra l'altro anche in un concetto di scuola come bene comune, di cui magari parleremo nella seconda parte di questa trasmissione con i nostri ospiti, che ricordiamo sono Marco Bersani e Lucia Tozzi, nonché un tuo amico che Gianluca. È un professore di liceo invece. Esatto. Avremo anche la voce di chi insegna ai ragazzi più grandi. Sì, infatti adesso allora ti propongo, per passare alla seconda parte della nostra trasmissione di questa sera, di ascoltare un piccolo audio che ho registrato qui a casa mia. Parlavamo prima, no, della situazione anche nelle famiglie data dal fatto che non si può più andare a scuola e quindi in qualche modo la scuola viene a casa tua. Ecco, a volte in modi un po' contraddittori e difficoltosi, perché poi sono un po' un nerd, lo ammetto, e abbiamo qui in casa almeno 3 computer, quindi la cosa è fattibile, perché con 2 bambini che devono fare magari qualche lezione online, devono fare i compiti, io che devo fare telelavoro, poi c'è mia moglie che insegna e anche lei fa lezione online, insomma la cosa diventa veramente un po' così pesante anche da gestire, immagino, per famiglie, tanto più per famiglie che non hanno le stesse possibilità che abbiamo noi. E l'altro giorno così ho registrato qualche momento, qualche secondo di mio figlio che faceva i compiti via Skype con un suo amico. Allora ti propongo di ascoltarla, poi facciamo un piccolo stacco musicale e chiamiamo i nostri altri ospiti, va bene? Va benissimo. Beh, cioè, comunque, sì, ma forse quello, sì, poi o ce lo corregge la maestra o lo tiene così, perché poi ci sono anche, praticamente ogni bambino, ogni gruppo fa 2 storie, quindi ce ne sono tante di storie, perché un cane io non l'ho mai visto. Cioè, io non sono praticamente mai entrata in un tabacco, però in un tabaccaio. Però quello che c'è vicino alla scuola credo che non abbia i cani. Se no sarebbero sempre fuori. Beh. Perché però, scusami, è scomparso il testo. Sì, se vuoi lo faccio ancora. Sì, magari perché potrebbe servire. Devo dire una cosa. Papi! Qualcuno si chiama su Skype. Eccoci Francesca, ci sei? Ciao. Ciao, ciao Lucia, la nostra ospite. Ciao, come stai? Allora, io sto cercando di riprendere la chiamata con... Eccoci qua, Marco, ci sei? Ah, sei Ciao, ciao. tornato Mattia, eravamo preoccupati. Allora, sì, c'è qualche problema tecnico come al solito con Skype. Ciao Marco! Ciao carissimo, come stai? Bene, tu? È un Bene secolo compatibilmente. e Sei in diretta mezzo. adesso, Marco, eh? Ah, sono in diretta? Sì, sei in Adesso sì, diretta. sei in diretta. Bene, bene. Da un po' di ritorno però di Marco, mi sembra. Ah, sì? Vabbè, ce lo teniamo, mi sa, per questa sera. Allora Marco, innanzitutto ti presento, ti racconto un po' quello che abbiamo toccato, insomma gli argomenti che abbiamo toccato fino adesso con Mattia. Praticamente abbiamo avuto come ospiti due maestri elementari che ci hanno raccontato un pochino quali sono le loro difficoltà, quali sono le loro speranze anche per l'apertura della scuola. E tutto è partito da questa immagine abbastanza evocativa che sia io che Mattia, un po' tutti credo abbiamo visto, dei parchi recintati, dei parchi chiusi, dei bambini, assenti, del rumore, del vociare dei bambini assenti dalle strade e, di queste altalene, anche le altalene ferme. E devo dire che sono state immagini che hanno colpito tanto, tante persone e che hanno, così hanno fatto male perché potevano esserci delle soluzioni diverse, probabilmente. Sicuramente, prima abbiamo fatto sentire, per esempio, una piccola intervista, un piccolo audio, della prima ministra norvegese che ha fatto una conferenza stampa dedicata ai bambini. Sicuramente la sensazione forte e concreta anche che abbiamo avuto in queste settimane è che i bambini non fossero presi in considerazione. Dalla catena di decreti, da questo governo, nonostante appunto si parlasse spesso di soldi, la ministra Azzolina parlasse di risorse che vengono messe a disposizione, però una cosa su cui soprattutto te ci hai fatto riflettere con il bell'articolo di qualche giorno fa, che è stato ripreso anche da Comune Info. E sembra che ancora una volta sia stato messo sull'altare il PIL, l'economia e una certa idea di società e i diritti di tanti, fra cui i diritti dei bambini, siano stati assolutamente messi in stand-by. Allora, con te in questa seconda parte di trasmissione avremo piacere di fare una riflessione un po' più particolare, insomma un po' più intensa per quanto riguarda un po' appunto la dimensione anche economica in cui ci stiamo immergendo, di questa lunga emergenza, e come stiamo strutturando le cose a discapito anche dei bambini. Che ci racconti te, Marco? Che riflessione hai fatto in questi giorni anche come papà? Beh, diciamo una cosa, che la non esistenza dei bambini la si vede da quanto vengono nominati nei decreti e nelle conferenze stampa. Io ci ho fatto caso, i bambini vengono sempre nominati in negativo, cioè ci raccontano cosa i bambini non possono fare. Cosa i bambini possano fare non è problema delle istituzioni. Non è problema di chi dovrebbe governare il paese, ma è assolutamente problema scaricato in toto sulle famiglie. Questa cosa è pesante, intanto perché i bambini sono stati i primi a essere costretti a casa. E da come stanno procedendo anche in questi giorni, saranno gli ultimi a ritornare a una quotidianità conosciuta. Ora, i bambini pochi sanno, o, no, secondo me molti sanno, ma chi governa forse ignora, che cosa significhi per dei bambini trovarsi da un giorno con l'altro una situazione in cui tutto quello che prima si poteva fare a un certo punto non è più possibile farlo, e vederli che chiedono ai genitori quasi costantemente, o con domande dirette o con lo sguardo, che sta succedendo e quando finirà. E immaginate cosa significa, per esempio, per dei genitori provare a spiegargli, ma non sapergli dire: guarda, finirà quel dato giorno. Capiamoci, nessuno sa se esiste un dato giorno, però gli altri paesi, per esempio, hanno cominciato a mettere delle date. Mettere una data che probabilmente poi non sarà rispettata perché dipende da come va l'epidemia, però significa cominciare a mettere in campo tutto quello che è possibile per arrivare pronti a quella scadenza. L'Italia è l'unico paese che sui bambini non ha messo una data. Addirittura non ha messo una data neanche sull'inizio del prossimo anno scolastico. Quello che continua a ripetere la ministra è: si vedrà, vedremo le condizioni, vedremo cosa succederà. E questo fa a pugni con il fatto invece che la cultura dell'impresa continua a impregnare tutte le scelte politiche e economiche. Parliamoci molto chiaro, il disastro della Lombardia, su cui io non capisco perché non si aprano discussioni a tutti i livelli, tra i paesi colpiti da epidemia, il Belgio è quello che ha una mortalità più elevata. E in Belgio si sono aperte discussioni gigantesche. Il Belgio ha 6.000 morti su 12 milioni di abitanti avuto. La Lombardia, che non rientra nella classifica perché è una regione, ha 10 milioni di abitanti e ha superato i 12.500 morti. Cioè, se fosse uno Stato, la Lombardia avrebbe il primato mondiale dei decessi da coronavirus. C'è qualcuno che sta discutendo questa cosa? No, quello che sta succedendo è che le pressioni di Confindustria, che hanno trasformato un serio problema sanitario in una tragedia di massa, continuano a essere il faro delle scelte di politica economica. Fate caso quali sono le province più colpite. Piacenza, Bergamo, Brescia. Piacenza è il centro della logistica nazionale. Tutti i trasporti merci passano dal centro logistico di Piacenza. Lodi è una delle province più colpite, moltissime persone di Lodi lavorano al centro logistico di Piacenza. Le altre due province più colpite sono Brescia e Bergamo, che sono le due province più industrializzate d'Italia. Lì non si è mai smesso di far andare avanti le attività economiche, tant'è vero che sono dovuti intervenire i lavoratori con scioperi autorganizzati. Allora, facciamo questa fotografia. Quante volte si parla nei talk show, nei decreti, nelle dirette Facebook del Presidente del Consiglio, in tutti i discorsi che si sentono, di necessità di far ripartire le imprese e quante volte si parla dei bambini? Questa dà la fotografia di cos'è questo paese, ma dice anche che se non interrompiamo questa, diciamo, questa trasversalità culturale che vede solo l'impresa come unico faro delle scelte, non andiamo da nessuna parte e questa pandemia non avrà insegnato nulla. Ecco, se Sì, posso in dire una effetti. cosa, Francesca, no, io vorrei, beh, prima di tutto riprendere alcuni dei ragionamenti che ha fatto Marco e riprenderli con un'altra nostra ospite che è già con noi. Lucia, ci sei? Ciao, buonasera. Ciao, allora, Lucia Tozzi, giornalista, è con noi questa sera perché è stata una delle promotrici, di un appello, una lettera. Ecco, ecco, qui abbiamo ricevuto un'altra telefonata Skype. Voi ci siete? Noi ci siamo. Ci Eccoci. siamo, ci siamo. Gianluca, ci sei? No, Gianluca non c'è. Sì, ci Ah, sono. eccoci, siamo tutti in questo momento. Benvenuto a Gianluca. Gianluca è un insegnante di lettere del liceo, di un liceo qui a Trento. Lo salutiamo. Io stavo Gianluca, chiedendo a Lucia Tozzi, di raccontarci un po' da dove nasce l'idea di un appello, di una lettera inviata alla, ministra dell'istruzione che, si trova su avaz.org e che ha già ricevuto quasi 800.000 firme, intitolata Priorità 80.000, adesso mi piacerebbe 80.000, 800.000, scusami, chiudo 80. questo numero. Sì, lo 80.000 ci siamo, speriamo. sì. Che è già molto, certo, scusa, 80.000. Tra l'altro, raccolta firme che lettera che abbiamo firmato sia io, sia Gianluca, sia molte altre persone. Il titolo è Priorità alla scuola. Mi sembra di capire, Lucia, che tu possa condividere un po', alcuni dei ragionamenti che ha fatto Marco, in particolare sulla mancanza di un dibattito, sulla centralità della risposta da dare ai bambini e alle giovani generazioni anche attraverso la scuola in questo momento. Io condivido non solo quello che ha detto Marco, ma anche quello che dicevano prima i due maestri che ho sentito. Cioè, effettivamente, la didattica a distanza non può assolutamente sostituire, la didattica in presenza, ma incredibilmente l'unico discorso che si è sentito da parte delle istituzioni è stato l'equivalenza di didattica a distanza. Dice, la scuola non si è mai fermata perché c'è la didattica a distanza che sta funzionando egregiamente e che poi sarà ancora più perfezionata attraverso l'acquisto di attrezzature, iPad, connessioni, eccetera. Per il resto, silenzio più assoluto. Silenzio più assoluto non solo nei confronti dei diritti dei bambini, anche semplicemente dei bambini come interlocutori delle famiglie, dei genitori, eccetera, degli insegnanti che ne hanno assolutamente bisogno, ma anche della questione proprio del diritto allo studio, che è una cosa ancora diversa, diciamo, proprio dall'interlocuzione con i bambini, perché comunque quello che è indubitabile è che questa didattica aumenta, esaspera in maniera ancora più forte quelle che sono le diseguaglianze fortissime nel diritto allo studio nel paese, che sono già presenti nella scuola normale, ma che acquisiscono una forza straordinaria in questo caso, perché al di là del digital divide c'è una questione di, proprio di aiuto delle famiglie, come dicevi tu stesso, ai bambini, cioè i bambini, soprattutto quelli più piccoli, non hanno nessun tipo di possibilità di essere totalmente autonomi nella gestione di questa didattica a distanza. Quindi si verifica un'esclusione di circa un 30% di bambini in toto dalla scuola, bambini che non hanno case grandi a sufficienza, bambini che non hanno famiglie che li possano seguire, eccetera, completamente tagliati fuori dalla scuola, e bambini invece seguitissimi in maniera anche più intensa che in un periodo normale dai loro genitori, e magari a cui vengono affiancate anche altre lezioni private a distanza o in presenza dai genitori. Quindi si crea un divario che aumenta di settimana in settimana, che se dovesse durare non solo oltre maggio e giugno, ma addirittura a settembre con un prolungamento della didattica a distanza, creerebbe un'enorme spaccatura nel paese, con dei danni sociali gravissimi. Quindi sì, questo parlare esclusivamente di PIL, come ha detto l'altro giorno il ministro Speranza, si apre quello che fa PIL, è gravissimo. È una cosa assolutamente gravissima. Lucia, sì, sicuramente la questione della didattica online che hai sollevato, cioè quella del rischio poi di portare una divisione sociale ulteriore, no? Perché poi il peso, diciamo così, del seguire i figli è tutto sulle famiglie. Ecco, io su questo farei intervenire Gianluca Trotta, lo abbiamo detto, è un professore al liceo Sophie Scholl, che ovviamente ogni giorno è alle prese con la didattica online, come tanti altri suoi colleghi. Gianluca, queste settimane di lavoro online, che idea ti sei fatto? Quali sono le prime conclusioni, un primo bilancio che trai da questo tipo di interazione con gli studenti? Ma allora, sicuramente non posso che essere d'accordo con tutte le cose che sono state dette finora, e quindi insomma sarebbe un ribadire alcune cose. Sono totalmente d'accordo anche sulle ultime cose dette da Lucia adesso. E l'impressione appunto è che, come dire, noi stiamo agendo in un momento, abbiamo agito in un momento di emergenza e nel modo migliore in cui siamo riusciti. E abbiamo attuato ciascuno di noi anche in maniera non necessariamente, come dire, fatta in maniera comune, in maniera concertata. Comunque ogni insegnante ha attuato le strategie che riteneva migliori e certo stiamo lavorando, i ragazzi sono molto impegnati. Io parlo di ragazzi, di fronte ragazzi che hanno tra i 14, 15 e 16 anni, ecco, questi sono i ragazzi delle mie classi, che è vero, rispetto a quanto diceva Daniele, mi sembra il maestro Daniele all'inizio. Sono forse più, come dire, adatti a una didattica a distanza, sicuramente rispetto a dei bambini, ma sicuramente, ecco, quello che noi stiamo facendo non può e non potrà assolutamente, questo io mi sentirei di ribadirlo fortissimamente, non potrà mai sostituire quello che è la scuola che abbiamo in mente, la scuola fatta anche di lavoro in un gruppo, in un contesto in cui ci si incontra, ci si vede. Questo, ecco, il lavoro è corposo, parlo da parte per quanto riguarda me, per quanto riguarda gli insegnanti, ma anche per quanto riguarda i ragazzi. I ragazzi, appunto, si connettono, ovviamente noi cerchiamo nelle classi, nei consigli di classi, di non fare in modo che loro non siano connessi per troppo tempo in una giornata. Diciamo che facciamo una via di mezzo tra quelli che sono degli incontri fatti con delle videochiamate e quello che invece è un lavoro pianificato, studiato appunto per l'occasione, perché loro lavorino in autonomia. Ecco, questo è forse un aspetto da non sottovalutare. Loro sono stati chiamati in questo momento a lavorare molto di più in autonomia rispetto a prima, e ovviamente, come sempre, come è anche già stato detto, questo può favorire chi, o forse, come dire, era già più avanti in questo tipo di autonomia, o chi ha qualcuno che lo può affiancare, eccetera, mentre sicuramente chi è più fragile, chi avrebbe bisogno maggiore della presenza. Il rischio è che lo perdiamo, lo lasciamo indietro. Cioè, dire che io lavoro in una realtà, tra virgolette, privilegiata, sono in un liceo, linguistico, i ragazzi appunto sono abbastanza grandi, però ecco, c'è sicuramente in ogni classe una quota di ragazzi che necessiterebbero di una vicinanza maggiore, di un aiuto maggiore. Ecco, questi, il rischio è che questi li perdiamo, come appunto il rischio è di perdere quelli che hanno meno mezzi tecnologici a disposizione. Ovviamente, ad esempio, la nostra scuola si è data da fare su questo nel corso di questo mese, ormai mese e mezzo, quasi due, per raccogliere appunto le segnalazioni di difficoltà e cercare di venire incontro come meglio si poteva. Allora, io direi, certo si lavora anche intensamente, devo dire, i ragazzi lavorano molto, insomma, chi volesse dire che non abbiamo fatto scuola in questo periodo sbaglia proprio, perché la scuola è stata fatta in maniera diversa. Quello che io mi sentirei di dire è che questa maniera diversa ha senso di essere in un momento di emergenza, ma l'emergenza appunto prima o poi deve terminare, al di là del fatto che appunto l'emergenza sanitaria, questo dipende anche dall'emergenza sanitaria, ma insomma bisogna cercare un modo perché appunto questo che stiamo facendo non si trasformi nella normalità, nella quotidianità. Io di questo ne Senti, sono abbastanza Francesca, convinto, anche se, come dire, non posso dire che il lavoro non funzioni, però sicuramente funziona, ma per alcuni forse di più e comunque limitatamente. Questo. comunque, il dato di fatto, insomma, la fotografia viene fuori sia dalle testimonianze dei maestri e dei genitori e da quello che ci avete raccontato un pochino fino adesso, è comunque una fotografia abbastanza impietosa su quello che è stata l'attenzione o è l'attenzione o la visione che ha questo governo per quanto riguarda dei servizi fondamentali e sociali come la scuola. Questo mi fa tornare a una domanda che avrei per Marco Bersani, che tra l'altro prima, un po' la confusione tecnica che c'è stata, non ho presentato adeguatamente, persona più che conosciuta, e appunto Marco Bersani, che è scrittore di Attacchi Italia, voce storica del Foro dei Movimenti per l'Acqua, grande amico mio, insomma me ne vanto, però soprattutto è un sono un osservatore molto attento per quanto riguarda la questione dei beni comuni. Alcuni dei passaggi dell'articolo che citavo prima, insomma quello che parlava appunto della contrapposizione fra il dogma del PIL e i diritti delle persone, dei bambini in particolare, c'è stato un passaggio duro che te hai fatto, Marco, che raccontava appunto come i bambini siano evidentemente stati tagliati fuori da tutta una serie di riflessioni e di decreti, perché sostanzialmente non sono produttivi. Quindi ancora una volta, nonostante lo scossone di una pandemia, lo scossone di un blocco totale di attività e di insomma tutta una serie di riflessioni che questo posto di fare comunque sono venute fuori anche in maniera spesso molto chiara, nonostante tutto questo stiamo vedendo l'accelerazione delle ultime giornate in cui sembra che appunto la malattia non esista più, esista solo la necessità di aprire il prima possibile le attività, e comunque chi non è produttivo non viene fatto partecipe dell'azione collettiva. Ma sì, diciamo che la cosa che, perché poi la scuola fa quello che può, secondo me fa di più di quello che ci immaginiamo, molto meno di quello che racconta la ministra, perché ha bisogno di dire che tutto sta funzionando e che anzi questo è un grande processo di innovazione. Ma i bambini non hanno bisogno della scuola nel senso solo della didattica. Io posso raccontare cosa faccio io durante la giornata, oltre a lavorare in casa. Io faccio il maestro di mio figlio e la professoressa di mia figlia. Poi faccio il loro allenatore di calcio e il loro allenatore di pallavolo, rispettivamente il maschio e la femmina. Al sabato faccio pure il loro capo reparto Boy Scout. Ora, qualcuno si domanda se questi bambini hanno voglia di fare gli scout con papà e mamma, hanno voglia di fare pallavolo con papà, hanno voglia di fare calcio con papà? Cioè, quando noi li mandiamo fuori di casa, non è perché non sappiamo che cosa fare, ma perché i bambini devono stare nel mondo, devono stare a scuola con i loro compagni, devono andare nei parchi, devono andare a fare le loro attività sportive. C'è l'emergenza sanitaria? Siamo d'accordo. Ma un paese civile dice: i primi che dobbiamo rimettere nella quotidianità sono i bambini. Tutto il resto dipende da questo obiettivo. È esattamente il contrario di quello che si sta facendo in questo paese. Tenete conto che ogni prolungamento dell'attività economica e produttiva significa una diminuzione del tempo, cioè un rallentamento del debellare il virus. Chi pagherà questo rallentamento? I bambini, la cui quotidianità, che accederanno alla loro quotidianità conosciuta in tempi sempre più lunghi. Allora, noi dobbiamo decidere che società vogliamo. Vogliamo la società dove le fasce forti della popolazione, quelle produttive, quelle la cui attività viene misurata appunto con il PIL finale, continuino a stare, volenti o nolenti, dentro un modello che ci ha portato alla pandemia, perché la pandemia non è che è arrivata da un altro pianeta, è già uno dei fenomeni del cambiamento climatico in atto. La pandemia è già la dimostrazione che questo modello non funziona. Ma quando mai si è visto che metà della popolazione del pianeta viene chiusa contemporaneamente in casa? Allora, se vogliamo ragionare su un altro modello sociale, è chiaro che non dobbiamo più partire dai paradigmi precedenti. E cominciare da che cosa? Cominciare dal fatto che questo modello, è dimostrato, non garantisce protezione a nessuno. Allora si tratta di modificare la cultura, l'economia, la società in direzione di che cosa garantisce la protezione. Che cosa garantisce la protezione? La cura di sé, la cura degli altri, la cura dell'ambiente intorno. Allora l'attività didattica deve essere impostata su quello, l'attività economica deve diventare quello, la società intera deve basarsi su quello. Tutto questo produrrà anche il benessere economico, ma il benessere economico deve essere una conseguenza del diritto alla vita, alla cura e alla capacità di sentirsi parte di una comunità relazionale, sociale, eccetera. Noi invece ci troviamo in che cosa? In una situazione dove, se sei un lavoratore, sei costretto ad andare a lavorare in questo periodo e a sottoporti quindi al rischio del contagio. Appena finisce il tuo lavoro, cioè dove dovrebbe cominciare la vita tua, tu sei recluso, cioè tu funzioni solo in quanto sei produttivo. Nel momento in cui smetti di essere produttivo, ti segreghiamo in casa. I bambini non sono produttivi secondo quel tipo di cultura e quindi è meglio che escano il più tardi possibile. Tra l'altro stiamo parlando di quelli meno colpiti dalla pandemia, che sono quelli che fanno la reclusione più lunga. Gli anziani, c'è già qualcuno che sta dicendo quando riapriremo, gli ultra sessantenni devono stare chiusi in casa, a prescindere dal loro stato di salute, da come stanno, dalle relazioni sociali su cui possono contare. L'anagrafe, ultra sessantenni tutti chiusi in casa. Cioè stiamo immaginando un mondo che io mi immaginavo nei film di fantascienza. Allora, sì. Qui occorre che scendano in campo le persone e dicano tutte insieme che tipo di società vogliamo, perché è chiaro che ci deve essere un conflitto culturale pesante su questa cosa, altrimenti ci ritroveremo con lo stesso modello precedente in versione ancora più autoritaria. Sì, mi piace questa idea di tua, Marco, insomma, una società della cura in qualche modo. Forse, chissà, questo virus ci sta cominciando a far riflettere su questo concetto, non tutti purtroppo e non come dovremmo, ma forse è anche così uno degli obiettivi che ci siamo posti con queste nostre trasmissioni. Ma su questo vorrei fare intervenire anche Lucia. Lucia, ci sei ancora? Ci sono sempre. Allora, siamo tutti convinti, mi sembra, che così non può andare avanti. Questa scuola non è la scuola che c'era prima, c'è stata una rottura pedagogica di cui bisogna tenere conto e certo la didattica a distanza non può sostituire una didattica in presenza. La scuola deve avere un ruolo sociale e questo può essere espletato soltanto se si torna tra i banchi. Voi nella vostra lettera alla ministra, priorità alla scuola, fate qualche ipotesi. Come ti immagineresti questo ritorno alla scuola che tutti quanti qui consideriamo necessario, Lucia Tozzi? Allora, io di nuovo sono rimasta molto contenta di quello che avevano detto i due maestri, perché appunto penso che se proprio dovessi dire quello che immagino io, e che appunto bisognerebbe cercare modelli che sfruttano al massimo gli spazi aperti, i parchi, se stiamo nelle città, il paesaggio, se siamo in paesi più diciamo più agresti, questo genere di cose qua, ma una scuola comunque normale come era prima, cioè non a distanza. Questo però è un po' un problema. Diciamo, su questo c'è un problema legato alla percezione del rischio, soprattutto da parte degli insegnanti, i quali giustamente in quanto lavoratori, come tutte le altre categorie di lavoratori, vorrebbero lavorare in sicurezza e quindi dicono i bambini sono molto immuni, noi meno, e quindi però vogliamo essere garantiti al 100%. E quindi dice, finché non ci sono garanzie spaziali, sanitarie, eccetera, non vogliamo neanche tornare, alcuni dicono, altri invece no, assolutamente. Ora, io quello che da questo punto di vista dico è, io da un lato in molti paesi che però, come dicevate voi, hanno già fissato una data che poi può essere scaglionata, ipotetica, rimandata, tutto quello che si vuole, però una data vicina per ricominciare, molti stanno iniziando a pensare se fanno classi dimezzate, se fanno turni ridotti, se fanno aule, non lo so, sfruttano edifici magari non in uso, vuoti, oppure non so, cinema, teatri che però non posso riaprire. Ci sono milioni di ipotesi da questo punto di vista. Io penso che forse la cosa più importante, diciamo, per riaprire con la massima, offrendo la massima sicurezza, è quella di puntare sulle assunzioni temporanee o soprattutto definitive, diciamo, a tempo indeterminato, di molti insegnanti. Cioè, nel senso che credo che ci sia bisogno di molto personale per eventualmente offrire a chi è più a rischio, magari più immunodepresso, oppure se appunto se per caso si trova in una fascia d'età più a rischio, perché comunque quella cosa esiste, la possibilità di essere sostituito per qualche mese, oppure di andare in malattia se non si sente di assumere il rischio, eccetera eccetera. Però penso anche che pianificare, cioè se adesso puntiamo sulla pianificazione della massima sicurezza sanitaria, si creano i presupposti per una scuola molto più inospitale, molto più molto meno sociale e molto più invisa tra l'altro ai ragazzi e secondo me anche agli insegnanti stessi. Inoltre c'è un problema di risorse, cioè quello e su questo mi riallaccio a quello che diceva Marco, cioè per riaprire, più la riapertura si avvicina alla normalità e più e chiaramente la spesa può essere minore e quindi la possibilità anche di procedere è minore. Se si punta a soluzioni molto forti dal punto di vista strutturale, cioè appunto ristrutturazioni degli edifici scolastici, adattamenti di altri tipi di edifici, strutture, che ne so, supporti di plexiglass per tenere la sicurezza, per separare i bambini tra di loro, eccetera, eccetera. Tutto questo significa che sono soldi che vengono investiti lì e non vengono allocati magari appunto nel personale, gli insegnanti, eccetera, eccetera. Quello che per ora siamo sicuri che sta succedendo è che il governo ha già allocato moltissimi soldi per invece dare device e connessioni ai bambini che non ce l'hanno, alle famiglie che non ce l'hanno. E questo è un cattivissimo segno, perché vuol dire che si sta orientando a che cosa? Invece di ripotenziare, anzi potenziare molto di più la scuola pubblica e tentare di renderla il più possibile uguale, si sta tentando subito, si sta cominciando a creare un mercato di servizi digitali alla scuola. Significa che si comprerà, ne saranno avvantaggiate imprese che vendono device, imprese che vendono banda larga, aziende. Sì, e poi Lucia, finisco solo si interrompe un pezzo. Fondazioni per la formazione, tipo la Fondazione Agnelli, che sta premendo per la formazione digitale dell'insegnamento e degli insegnanti, didattica a distanza per gli insegnanti, cioè c'è tutto un mercato che mi sembra che chiaramente si stia proprio fregando le mani alla prospettiva di queste nuove. Assolutamente. Ecco, questo io sì, posso Lucia, dirlo. Scusa se ti ho interrotto prima. Però mi è fatto venire in mente una chiacchierata che ho fatto questo pomeriggio con una mia amica che invece in un asilo a Parigi, tra l'altro, quindi insomma anche lì hanno tutta un'altra serie di problematiche, però chiaramente tutto quello di cui stavi parlando te, su cui tra l'altro sono più che d'accordo, si incrocia anche con la questione educativa, no? Soprattutto di tenere i più piccolini così tanto a contatto con appunto con i computer, computer, con i telefonini, che di certo non è né una cosa che fa bene a loro né una cosa che loro desiderano se non gli è indotta. E tra l'altro penso, Mattia, che la questione bambini, la questione scolastica è talmente ampia e è un tassello così importante anche della nostra riflessione politica, sociale ed economica dei prossimi giorni, che penso dovremmo dedicarci un'altra puntata, magari appunto riflettendo su sugli asili, sulle materne. Mi sta chiedendo Marco Bersani, ma insomma se vuoi chiedere te direttamente, se vuoi inserirti in te della discussione, se appunto Molise e Basilicata hanno avuto complessivamente contagi pari a quelli di un condominio di Bergamo, perché i bambini del Molise e della Basilicata non hanno ancora una data di rientro, ma e tra l'altro in diversa maniera sono le riflessioni che si fanno anche qua in 3D, che in alto c'è le azioni che stanno mettendo in campo le amministrazioni sono molto diverse, hanno avuto molto più cura dell'allegria dei bambini, anche i nostri che pure vivono tra i prati e le valli. Sono chiusi dentro senza scampo. Sì, a me ha impressionato molto, Francesca, anche la descrizione, no, di Lucia, di questo mercato al quale già tutta una serie di istituzioni private ambivano, no, in precedenza, in particolare in ambito universitario, ma non vedono l'ora di potersi buttare su quello che si sta aprendo anche in altri ordini di scuole per quanto riguarda la didattica online. E ovviamente non abbiamo toccato questa sera la questione dolente, il tasto dolente delle piattaforme che vengono utilizzate per fare la didattica a distanza, che è un tema enorme, perché tutti i dati poi finiranno nelle mani di chi ben sappiamo, Google, Facebook, eccetera. E questo è un grosso problema ed è allucinante che non si sia agito dal punto di vista così delle istituzioni pubbliche anche nel costruire piattaforme, semmai anche pubbliche, open source, eccetera. Ma questo è ancora tutto un altro dibattito. Io direi che questa sera, Francesca, abbiamo superato il muro del suono, cioè abbiamo superato le 20, ormai più di un'ora che siamo online, siamo, come dire, ormai potremo andare avanti per ore. Io però a questo punto lascerei anche andare i nostri ospiti a cenare, ringraziandoli. Io li ringrazio tantissimo, ringrazio Marco Bersani di Attacchi Italia, che saluto. Ciao Marco. Grazie a voi chi ci ha ascoltato. Ciao Marco, un abbraccio, ciao, grazie mille. Un abbraccione. Lucia Tozzi, giornalista, io ricordo, si può ancora firmare, credo, no? Per arrivare al milione di firme, Lucia. Sì. Su avaz.org, la raccolta firme si intitola Priorità alla scuola, e poi grazie anche a Gianluca Trotta, docente del liceo. Sì, adesso ecco, le cose che ha detto Lucia mi sarebbe piaciuto molto amplificarle, perché ha proprio centrato un punto, quello appunto della moltiplicazione delle offerte da parte delle aziende, ma appunto sarà un'altra puntata, Gianmarco, sarai ancora con noi per un'altra puntata su questo tema sicuramente, Gianluca. Va bene, no, nel senso che proprio stava proprio centrando un punto importantissimo. E allora grazie anche a te, Gianluca, Francesca. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie Lucia, grazie Gianluca. Sì, Mattia, ma io direi di lasciarci con, insomma, innanzitutto è stata ancora una volta molto arricchente, molto bella questa immagine della cura che ci ha regalato Marco, che la cura, insomma, in qualche maniera stiamo cercando di sviluppare. Diamo appuntamento a tutti domani alle 19, sempre in diretta dalla nostra pagina Facebook Radio, e domani il nostro trittico di serate della settimana che ci porta verso, tra l'altro, il 25 aprile, feste della liberazione, e lo faremo con un popolo molto allegro, no Mattia? Sì, allegro quando può esserlo, quando può imbracciare una chitarra, magari un violino, ma non solo. In questo caso forse un popolo che sta anche vivendo più drammaticamente questo momento di reclusione. Parliamo ovviamente dei Sinti e dei Rom. Domani saremo in collegamento con alcuni attivisti Sinti e Rom che ci racconteranno un po' come stanno vivendo la situazione. Bene, allora la nostra cura radiofonica vi dà appuntamento domani, sempre alle 19, e un abbraccio e quindi speriamo stiate bene. E quindi speriamo che stiate bene, noi vi proponiamo la nostra sigla finale, Social Capital con i Glad Rags. Ciao a tutti, a domani sera.